Eccoci. Silenziosi. Fissi. Nel vocio estremo. Saturo. Di una città quasi isola. Che sempre pecca e ride. E noi. Isola allora dentro l'isola, astratti dal mondo, vivi ancora dentro. Eccoci, immobili nel corpo, sguardo fermo, immateriale. La vita è altra dal tatto. Silenziosi. In una città che pecca e ride. In una città che sempre pecca e ride. Astratti dal mondo. Nel vocio estremo di una città che pecca e ride. Un gesto crea il mondo. Altri ancora a riempire vasi noi stessi, di nettari del mondo antichi e nuovi, passioni, e gesto su gesto il mondo si crea, e gesto su gesto il mondo si crea. Questo crea il mondo, e poi altri ancora, a riempire vasi noi stessi, di nettari del mondo antichi e nuovi, passioni, e gesto su gesto il mondo si crea, e gesto su gesto il mondo si crea.